per tutti. Anche noi appunto abbiamo un ospite, che è Giorgio Pedoni, psichiatra, ha scritto parecchi libri su arte e follia e insegna all'Accademia di Brera terapeutica artistica. E volevamo in un primo tempo brevemente ricollegarsi al discorso che stiamo portando avanti in questo workshop, cioè di capire come l'arte può essere di aiuto alle persone che in qualche modo vengono diagnosticate, qui viene diagnosticata una malattia mentale. E in particolare gli strumenti dell'arte che noi utilizziamo, e di cui abbiamo fatto vedere sia delle immagini, sia raccontato con le parole dell'esperienza, che l'arte può prendersi cura di una persona, si può prendere cura con l'immagine, si può prendere cura con le parole, col teatro. Con l'immagine quello che faccio io, col teatro quello che fa Laura. Ascoltando quando prima ci si domanda, diciamo che l'osservazione che veniva fatta, uno dice, ma non è sempre così. Cioè, ed è vero, cioè, noi vediamo che la persona a cui viene verificata una malattia mentale percorre un percorso fatto di tante coincidenze che possono andare in una direzione e possono andare in una direzione opposta. Per cui la sua condizione si può cronicizzare. Noi quello che sosteniamo è che queste persone vanno soprattutto riabilitate, quindi fa un percorso di non di segregazione bensì di ritorno, una parola brutta, però di reinserimento nella società. Quello che noi vediamo è che appunto se noi passiamo in rassegna soltanto le parti psichiatriche dell'ospedale di Milano, vediamo che in alcuni ospedali di Milano, anche molto centrali, tutte queste cose si vedono ancora, le ho viste con i miei occhi, le persone legate al metodo di contenzione, tutte queste cose ci sono ancora. In altri ospedali di Milano invece non è così, quindi se una persona appartiene a una certa zona di Milano finisce in un ospedale, se appartiene a un'altra zona di Milano finisce in un altro ospedale, con conseguenze ben diverse. A livello nazionale il 75% sono poco chiuse delle attività. Esatto, sono ancora poco. Poi ci sono i centri psicosociali, i centri di riabilitazione che dovrebbero appunto non curare con le medicine, non solo, ma anche fare delle cose riabilitative. Tra queste cose riabilitative ci sono i laboratori di arte, i laboratori che fa di teatro. Il problema che dicevamo l'altra volta è che già, per esempio, un conto è finire in ospedale, un conto è finire nell'altro. Già all'interno di queste istituzioni intermedie uno può avere la fortuna di incontrare la persona valida, può avere la fortuna di incontrare la persona che prima di malattia mentale non mi può mai mettere in vita sua perché è allergico a queste cose e ne ho conosciuti. Quindi una cosa molto amata di Leonardo. L'altra cosa è che quando viene si vanno in laboratorio, queste persone prendono coscienza, vengono reinserite attraverso il proprio mondo immaginario, riescono a elaborare il corpo, no? Nel momento in cui vengono reinserite nella società, reinserite le ricordate, cade ogni appoggio, per cui si ritrovano sole e quindi non c'è un accompagnamento a una rete sociale che in qualche modo riaccolga queste persone non come malati mentali da cui aver paura, ma come persone da prendersi cura. Laura ci dirà alcune cose su alcune esperienze che ha avuto di questa, su questo percorso. Dunque, finendo qua, per quanto riguarda le persone che ho in contatto, beh, io sono infermiera, lavoro in un centro di riabilitazione ad alta assistenza, che è una struttura che ha un tempo di 18 mesi pagati dalla regione per far sì che una persona che esce dall'SPDC, dove è entrato per TSO o TSV, oppure per una serie di coincidenze, ma comunque in questo percorso arriva al CRA e... allora, centro di riabilitazione ad alta assistenza, SPDC e... però è importante sapere, sono acronimi, sono tutti acronimi, tu pensa che centro CRA vuol dire centro di riabilitazione ad alta assistenza, poi c'è il centro di riabilitazione a media assistenza, cioè sono tutte strutture dove le persone che vengono diagnosticate con una malattia mentale vanno. E il discorso che abbiamo fatto fin dall'inizio, queste strutture hanno un compito che è quello di riportare a una, possiamo chiamare reinserimento, poi vedremo che cosa vuol dire essere reinseriti in una rete sociale che non accoglie. Però tutte queste strutture hanno questo scopo e sapere quindi dove vanno persone affette da diagnosi di malattia mentale. È importante sapere che esiste il centro diurno, è importante sapere che c'è il centro psicosociale, perché è il nutrimento poi di quello che è l'espulsione della follia dalla società. Cioè queste strutture nascono, dopo la legge Basaglia, affinché si chiudessero i manicomi e però si tenessero aperte all'interno di una rete sociale delle strutture dove le persone potevano appoggiarsi, però anche essere restituiti alla rete sociale. Quindi in questo appoggiarsi, liberare un po' la famiglia da tanti problemi che una famiglia affronta quando una persona con disturbi che si manifestano soprattutto nella incapacità di stare in una situazione che noi condividiamo, che è quella di lavorare, che è quella di stare a contatto con la realtà, riconoscere il dato reale, fare a meno di paranoie, di immagini che sbandano l'oggettivo, cioè, la persona che ha un'affezione psichiatrica ha a che fare con un mondo parallelo. Stare nel mondo del lavoro, della casa, già per noi che non abbiamo questi sbandamenti, è difficile. Per queste persone, prima di tutto, viene a mancare il terreno proprio vitale, per cui tornano in casa, stanno nella famiglia, non hanno un lavoro, piano piano vengono relegate a una situazione di difficoltà economica e da lì partono assistenze di questo tipo. A parte la struttura dove Magda è stata, ci sono queste strutture dove la persona viene restituita con un intervento che parte prima di tutto da alcune persone vengono aiutate a reinserirsi nel mondo lavorativo prima di tutto con quello che è una certificazione che li tutela nel mondo del lavoro a partire da un certificato di invalidità civile. Questa invalidità permette di andare nei circuiti di lavori protetti. Poi possono avere un sussidio, una pensione di invalidità. Tutto questo è concreto, è un'azione che viene fatta a favore delle persone che vengono, ripeto, diagnosticate. Per il resto delle persone che non vengono diagnosticate, c'è la rete sociale, cioè ci siamo noi con una relazione. E all'interno di questa relazione che la persona fa la cioè che la diagnosi fa la differenza. Cioè io posso essere avere un disturbo bipolare e per sommazione di evenienze fortunate io però potrò sempre fare a meno di entrare in un circuito come è stato quello di Marta. Per un'altra sommazione, sempre col mio disturbo bipolare, io potrò invece entrare in un tunnel, che è quello che mi porterà anche a essere legata a letto, in un accesso di violenza oppure di ira. Questi sono sentimenti che noi persone che siamo qua abbiamo sperimentato. Chi non ha scaraventato per terra un piatto o quasi strozzato il proprio compagno? Cioè, possiamo dirci che siamo tutti passati dentro a questa situazione, ma cos'è che fa la differenza? La differenza è che qualcuno nella relazione in quel momento faccia uso di uno strumento che è quello di riporto su di me, che il teatro permette, cioè quello di osservare una scena, distribuirsi le parti, riconoscersi, ascoltarsi. Fermi tutti e capiamo che cosa sta succedendo. E quindi non reagire ad un'azione, ma ascoltare, fare un passo indietro. Questa è una relazione sana. E come tante volte con Tommaso Urselli e nel tuo lavoro del Tiglio è venuto fuori eccellente questa osservazione, non è la persona malata, è la relazione malata. In questo, quindi facciamo due conti, se la persona è sola, sarà malata perché la relazione era malata, quindi lui si è dovuto staccare da quella relazione, ma rimane solo. Solo dove? In una rete sociale dove non c'è ascolto, non c'è accoglienza, non c'è un contributo a far sì che questa persona si appunto reinserisca. Per forza succede poi che queste sono diagnosi che si chiamano, sono doppie diagnosi, cioè una persona con una malattia mentale prima o poi incorre in una dipendenza da alcol o da droghe. Capita in un momento alla sera, questa persona viene trovata ubriaca a un eccesso di ira, viene preso e portato in una situazione già complicata di controllo da parte della polizia, eccetera. Tutto questo marchia la persona. Questa persona torna in casa, ha una difficoltà a stare nella relazione con i familiari. Succede un episodio violento, i parenti fanno la denuncia, viene preso e portato con un TSO in un ospedale. In più, in ospedale un SPDC, scusa, SPDC vuol dire, SPDC vuol dire psichiatrico di diagnosi e cura, cioè quello dove appunto c'è la porta chiusa, separato maschi da femmine, non puoi ricevere visite, non puoi uscire. Se non accetti la sedazione, sì, ti possono anche obbligare e quindi contenere. Questo può succedere. Questa persona quindi fa questo passaggio con una denuncia giudiziaria. Sto parlando di un caso, di un caso che poi è arrivato al centro di riabilitazione dove lavoro io. Questa persona viene contenuto sia con i farmaci sia con questi... La contenzione non è legale, però? No, no, allora, la contenzione allora, è un problema... Allora, prima di tutto, come operatrice sociosanitaria, vi dico, io non ci sono mai stata e mi auguro di non esserci mai in una guardia seconda, come quella del policlinico. Si chiama guardia seconda il reparto del policlinico. So però dei miei colleghi che non è facile per loro applicare una regola, perché il primario può dire un tot di ore al giorno questa persona verrà contenuta a letto se ha manifestazioni autolesioniste, perché il problema è quello. Ma cioè tu Sta buttando la fretta. Certo, certo. La tranquillità. Certo, no, non è perché. Allora, lì è delicata la situazione. Prima di tutto non si possono generalizzare, bisogna andare veramente su ogni persona. Su ogni persona succede sempre qualcosa di differente. Purtroppo noi tendiamo tutti in suicidio. Cioè, noi abbiamo paura che la persona, a un certo punto, non ce la faccia più, chi glielo fa fare di stare al mondo, prende e fa un tentato suicidio. Cosa faccio io come operatrice sociosanitaria? Decido che a questo punto gli apro la porta, vai, oppure lo contengo. Non è facile. Ma non può essere la paura come infermiera guidarsi nell'azione, però... Allora, poi parliamo anche di come viene istruita la persona che sta accanto al paziente. Però questo sarà un altro discorso. E cioè, come da questa struttura poi questa persona esce e torna nel territorio. Torna dopo aver fatto questi 18 mesi in un centro di riabilitazione ad alta assistenza, dove vengono proposti alla persona dei laboratori anche di arte. Questi laboratori di arte servono a riabilitare quella possibilità di usare il pensiero in modo che abbia a che fare più con la realtà che con i propri delirio. Allora lì c'è un equilibrio che lo psichiatra dovrebbe mettere in piedi. Un equilibrio tra il farmaco e la riabilitazione del pensiero. Tutto questo avviene anche qui, come diceva Fiorenzo, per sommazione, cioè alcuni riusciranno ad avere, è brutto dirlo, ma avere più opportunità, altri meno. E il nostro intervento per quanto riguarda la riabilitazione del pensiero è quello che riguarda tutti, cioè tutti quelli che agiscono col pensiero più o meno fanno l'esperienza di quello che è l'ascolto di una situazione di solitudine, di vuoto, di angoscia esistenziale. Cioè, non credo che noi siamo diversi dalle persone che hanno un'affezione psichiatrica. Noi viviamo con lo stesso pensiero di emarginazione, soffriamo di paranoie, tutto quello che è nevrosi. Accanto c'è la psicosi e sulla psicosi interviene il farmaco, ma quel farmaco deve permettere all'altra parte del pensiero di rimanere in equilibrio e di riabilitarsi. Di riabilitarsi da solo, con le proprie strutture, con quella che è la resilienza della persona. Tutto questo fa la differenza. Quello che dicevi sulle istituzioni, a me preoccupa molto di più, a noi preoccupa molto di più, non tanto, scusate, è veramente, pensatela un po' gigantesca, non mi preoccupa il laccio adesso, allo stato attuale, con la legge Basaglia, con tutto il pensiero che c'è stato dietro, che ha permesso a Basaglia di nascere, a me non preoccupa il laccio ai polsi, a me preoccupa questi guanti bianchi di una camicia di forza, metaforica, che è l'espulsione della persona dalla società. Cioè piano piano vengono portati fuori dalla società perché non trovano terreno, non trovano accoglienza, mancano le case protette, mancano gli appartamenti protetti, manca un'edilizia che, come diceva Fiorenzo, è a macchia di leopardo, per cui in una città come Milano, se vai al CPS di zona 19, forse ti va bene, se vai a uno, non si dicono, vabbè, va un pochino peggio perché manca il personale, manca un'assistenza, manca una rete di volontariato costruita, educata. Anche noi dovremmo essere veramente rieducati, riabilitati ad accogliere la follia. E come si fa? Io credo fermamente che il lavoro che la scena teatrale permette, tutto quello che il teatro permette come catarsi, sia fondamento di una società sana, per quello che lo porto nei centri di riabilitazione. Certo che ci vuole, come dicevo per i miei colleghi, per me stessa, ci vuole un percorso di formazione profondo, cioè non è casuale la formazione di una persona che sta accanto a una persona con una diagnosi di malattia psichiatrica. Non si può lasciare a caso, quindi siamo infermieri che dobbiamo lavorare su di noi prima di tutto. Noi siamo in analisi costante, per quanto mi riguarda tutto quello che è la relazione ha a che fare con l'analisi di sé. Tutto questo, ripeto, fa la differenza, per cui adesso direi anche basta. Quindi una persona ha dei problemi mentali, il medico dell'ASL dice vai al CPS, centro psicosociale. Il CPS ti visita, uno psichiatra, ti fa una diagnosi, c'ha un disturbo lieve, una nevrosi, c'ha un disturbo pesante, una psicosi. Sei in mezzo, sei borderline. Borderline vuol dire che puoi vedere una parte, puoi peggiorare e diventare una psicosi, oppure puoi stare in modo. Il termine borderline, adesso si parlerà giorno per giorno. Quindi, medico dell'ASL, centro psicosociale, possibile ricovero all'ospedale, più o meno volontario quarto, se si decide che tu non puoi curarti, e poi centro di CRA, centro di riabilitazione, che dovrebbe appunto riabilitare non soltanto quei farmaci, ma vuol dire il reinserimento nella vita sociale. Giorgio Meloni è psichiatra in un ospedale a Melegnano e quindi e poi abbiamo già visto dietro un'immagine che con Francesco abbiamo visto, per cui ci traghetterà da Francesco. Sì, grazie per l'invito, spero di dire qualcosa di interessante, spero. Allora, credo che intanto i temi che sollevava il suo libro sono temi forti, sono temi anche ultimi, credo, perché riguardano, infatti il dibattito andrebbe ripreso, credo, in un contesto e con tempi anche più adatti, perché sono ad alta complessità, e per la sua introduzione di Caronia, che è l'introduzione perfetta per il tema, ma anche perché in realtà quello che tu sollevi è molto delicato, perché c'è la frontiera del soggettivo, c'è il problema del lavoro psichiatrico e c'è il tema dello stigma. Le psichiatrie sono uno specchio della società in cui siamo, no? Come dire, non esiste una psichiatria asettica, come dire, con camici in odori fuori dal mondo, appartiene a questo mondo, e in questo mondo lo stigma è qualcosa di costante, che attraversa costantemente chi si occupa e chi ha disagio psichico. Quindi ovviamente il tema è forte, e questi libri sono utili perché permettono di riprendere temi ai noi spesso abbandonati in una idea di psichiatria medicalizzata, dove si pretende che tutto sia sottoposto, come dire, alla norma del farmaco, alla norma delle norme ospedaliere. Non è così, non era così ai tempi di Kaufmann o di Basaglia, e non è così oggi. Riprendo quello che partirei da questo, io parlerò sul tema arte e follia, aggiornandolo come pretende Fiorenzo col discorso del borderline. Vediamo se riusciamo a farlo in un tempo che non sia noioso. Però molto opportunamente io riprenderei utilizzando anche quelle categorie che Caronia introduceva all'inizio, che è il discorso di Goffman. Cioè Goffman andrebbe letto e riletto oggi. È una lettura che appartiene a quegli anni, scritti in quegli anni 60, letto e riletto, materiale, come dire, fondamentale negli anni 70, e poi basta, poi a un certo punto si diventati di Goffman e sono preferite delle sociologie più semplici, più accattivanti e credo anche più rassicuranti rispetto al rapporto con la follia. Cioè Goffman invece rimane quel monumento che è stato nella storia delle società, no? Come Foucault credo. Ora, in questo senso, se noi utilizziamo Goffman, ma anche Foucault per certi versi, no? Rispetto al tema dell'arte e follia, noi dobbiamo cominciare con una cosa piuttosto provocatoria che non può far piacere. Intanto che il tema arte e follia è un tema ambiguo, è un tema ad alta ambiguità, non in senso morale, ma ad alta ambiguità perché, come dire, è vero il binomio ma è falso. È assolutamente vero nel senso che appartiene alle radici della storia dell'Occidente, perché il binomio nasce la civiltà greca quando la divina mania platonica si associa alla melanconia aristotelica e il concetto attraversa la storia dell'Occidente da quel tempo sino ad oggi, cambiando i paradigmi ma sostanzialmente utilizzando quel tipo di categorie. Quindi è vero in questo senso, è un tormentone occidentale dell'Occidente. Dall'altro è falso perché arte e follia sono sovrapponibili. La storia dell'Occidente prova in alcuni casi a dire il contrario, ma in realtà noi oggi potremmo dire tranquillamente che il tema arte e follia è un binomio che è frutto di un artificio culturale, psichiatrico e anche artistico, perché no? Gli artisti ci hanno messo del loro, in maniera molto intelligente, anche molto accattivante, ma ci hanno messo anche del loro. I psichiatri in maniera un po' più ruvida, potremmo dire, più brutale, non brutte, ma brutale, no? Perché i psichiatri possiamo fare il marketing e gli artisti. Questo potrebbe essere una spiegazione, per dire che mi salva, se mi concede un'uscita, è decoroso dalla scena. Ma lasciato nella condizione che si è messo più da trovare, no? Ora, detto questo, noi potremmo dire che all'interno di questa storia gloriosa attraverso la quale è possibile fare la storia dell'Occidente, del pensiero occidentale, credo, dovremmo usare ancora una volta Goffman, no? Per dire che in fondo molta dell'arte follia. E quando noi parliamo di arte follia, noi parliamo sostanzialmente anche di un periodo storico molto preciso, cioè di quell'arte prodotta negli ospedali psichiatrici, negli asili manicomiali. Cioè c'è talvolta una sua confusione, perché si confondono prodotti di magnifici solitari dell'arte di oggi, outsider che vivono nei posti più remoti, ne incontrano ogni tanto nei posti più strani, ma che sono artisti ma non interessa esserlo e non si definiscono tali, ma lo sono nei fatti, no? Hanno una qualità, hanno talenti e qualità. E dall'altro utilizziamo categorie odierne, che hanno a che fare ad esempio con la terapia con l'arte o che hanno a che fare con l'outsider arte, per parlare di questo storico molto preciso. Lui, che è il di cui avete parlato, che mi hanno detto nei precedenti incontri, era uno di questi, cioè era un artista, era un paziente asilare, un paziente dei più sfigati, si può dire, no? Perché era l'ultimo degli ultimi, accusati di pedofilia, in cella di isolamento per diversi anni perché era violento ed aggressivo, che diventa Adolf Hölfli, che diventa l'artista qui da Svizzera negli anni 90, quasi per risarcimento postumo, dedica una stanza nel Museo di Berna, c'è la stanza e la fondazione di Hölfli, e a cui Harald Zena nel 72, la documenta di Kassel 5, credo, dedica uno spazio specifico nelle mitologie individuali, all'interno dei documenti. E come dire, quindi l'ultimo degli ultimi degli uomini, probabilmente contenuto a letto per chissà quanto tempo, in quel manicomio di Waldau, no? della Svizzera, diventa diventa artista quasi ambasciatore, per certi versi, una cultura di una Svizzera visionaria, come diceva Zeman, non negli anni 70-80. Ovviamente, quindi, abbiamo dei problemi, no? Riparazioni postume, riabilitazioni a posteriori e chissà quant'altro. Murphy è sicuramente un grande artista, io posso dirlo, credo che qualcuno mi smentisca, molti l'hanno detto e credo che sia assolutamente vero. In quel manicomio lui era Adolf Murphy, autodidatta nonostante nessuna formazione artistica e culturale, no? È un artista. Detto questo però, noi abbiamo tutta una serie di paradigmi che attraversano la storia occidentale, che ci portano all'attuale, quella che io definisco, per una mostra con cui sto lavorando, che sarà appunto borderline, una borderline dell'arte e della cultura, cioè un territorio di confine, no? Dove, se vogliamo, le distinzioni nette, arte o follia, arte e follia, chi artista che non lo è, diventano molto più transitorie. Non perché tutti sono artisti in una, come dire, in un buonismo generalizzato per cui basta, come dire, impugnare qualcosa che abbia a che fare con l'arte diventi artista. Questo è spesso anche una, io credo, non so se sia d'accordo, ma credo che sia anche, come dire, una sorta di stupida demagogia che non porta da nessuna parte, se non creando facili e inutili illusioni, no? Ma nel senso che a un certo punto, credo, una serie di artisti che appartengono alla storia dell'arte occidentale, dell'arte del nostro Novecento, della contemporaneità, che hanno avuto l'etichetta di folli, come dire, sono a mio parere dentro la storia dell'arte. Lo sono per ragioni varie. Uno perché, ad esempio, uno come Wörfli, da una cella manicomiale, ha saputo interpretare gli umori del suo tempo, la storia del suo tempo. Wörfli, all'interno del suo mondo, in una sua cosmogonia, ben rappresentata in queste forme mandale, no? Che lui utilizza in centinaia e centinaia di lavori, coglie gli umori di un tempo, siamo ai primi del Novecento, di una stagione coloniale, di una stagione espansionista, si darà un nuovo nome, che si chiamerà chiamare Sant'Adolfo, e darà vita, come dire, una sorta di guerra stellare dell'epoca. No? Cioè diventa l'eroe di un mondo inventato ed inizia, come dire, a scrivere 25.000 pagine autobiografiche con migliaia di illustrazioni. Cogliendo, Zeman questo lo dice in maniera molto, molto precisa in quella documenta, cogliendo lo spirito del suo tempo, cioè coglie cos'è l'Occidente, l'Europa in quel momento. Questo lo faranno moltissimi di questi che possiamo chiamare artisti asilari, che erano confinati dalla psichiatria fondamentalmente, ma anche poi, se vogliamo, dall'arte ufficiale, dall'arte accademica, in un contesto, in un retroscena della non arte. Non è un caso che vengono riscoperti, vengono valorizzati quando a un certo punto, ai primi del Novecento, alcuni psichiatri illuminati, potremmo dire, no? Uno è Hans Prinzl, quello che ne abbia parlato durante questi incontri, ma anche grazie alle avanguardie, ai artisti delle avanguardie, in primo piano ti metterei in molti casi surrealisti, ci sia una ripresa, un'attenzione verso queste forme. Cioè la abilitazione artistica degli artisti asilari avviene quando gli artisti e qualche psichiatra iniziano a scrivere e a dire che non esiste un'arte patologica, frutto di Cesare Lombroso, il cattivo del film. Cesare Lombroso è una figura complessa, dovrebbe in molti casi studiata. Ecco, perfetto, perché è una figura complessa. Bravissimo, allora, è importante. Ma perché Lombroso è un altro. Ma so che lei. Ma nel senso che, come dire, con le avanguardie, con Prinzl, in un certo senso, se stiamo ai primi del Novecento, si passa dall'atavismo lombrosiano, l'arte dei malati mentali viene letta come frutto di un pensiero atavico, simile a quello dei primitivi. Dunque, l'arte non occidentale l'arte dei malati mentali, per certi aspetti l'arte infantile erano il segnale di quella regressione a uno stato primigenio, che non era l'età dell'innocenza, ma era l'età della differenza, potremmo dire l'età dello stigma, no? Il manicomio nasce come per sancire che esiste una differenza, la struttista delle navi non c'è più nel 600, nasce il manicomio, dice Foucault, cioè nasce, come dire, lo spazio dove contenere tutto quello che è altro, l'alterità, no? Anche l'arte proposta negli asili manicomiali è altra. Tutta l'arte psicopatologica, fino agli anni 60, e qualcuno ancora oggi insiste, perché sono pochi, ma qualcuno insiste nella psichiatria, ha letto in modo sintomatico quell'arte prodotta negli ospedali psichiatrici, ma in modo sintomatico, non con una, se vogliamo, raffinata visione più o meno psicanalitica, più o meno freudiana, lacaniana, eccetera, eccetera, con tutti i limiti che hanno queste letture dell'arte, ma con una lettura prettamente psicopatologica, psichiatrica, segno uguale sintomo, no? Ora, questo cambia quando le avanguardie, o psichiatri come Princeton, leggono diversamente, leggono altrimenti queste forme di espressione. Cosa succede? Questo porta a quello che oggi chiamo la borderline dell'arte. Noi possiamo leggere fenomeni artistici nati nei luoghi di cura, ad esempio, e fenomeni artistici nati altrove. Piccola parentesi. Oggi si usa molto il concetto di outsider art, che a mio parere è un concetto per alcuni versi necessario, per altri molto precario, perché individua a un certo punto che c'è qualcuno fuori e qualcuno dentro, ma i molti che sono fuori, ve lo dico per esperienza diretta, aspirano a entrare, vorrebbero essere dentro. Allora abbiamo questo confine di border, no? Sì, c'è un passaggio che però è univoco. Quelli che sono dentro, gli insider, gli artisti insider, anche quelli più, come dire, più innovativi, non vogliono andare fuori. Quelli che sono fuori, gli artisti asilari, rimangono fuori. In nome di una poetica, a mio parere, molto discutibile, legata ai luoghi di provenienza. Ci sono nuovi ghetti nell'arte follia, sono i ghetti del ghetti, non sono ghetti voluti, sono ghetti costruiti a un certo punto da chi sta fuori anche, ma sono gli atelier dei luoghi di cura, gli atelier dei luoghi di cura che producono, fanno arte in modo più o meno discutibile, in alcuni casi io dico molto discutibile, in altri casi molto interessanti, no? Ma sono luoghi che producono esperienze artistiche, che vengono etichettate nell'outsider art. E quindi si crea una sorta di poetica ambigua, discutibilissima a mio parere, in alcuni casi ignobile potrei dire, no? Dove tu sei outsider perché vieni da un atelier, non so, di un luogo psichiatrico. Lo trovo stigmatizzante, no? Sconcertante e stigmatizzante. Questo apre una grande discussione. Quanto mi date ancora? Non voglio mai, poi diventano, poi ci chiacchieriamo piuttosto se avete voglia, ma diventa noioso. Ora, in questa borda con Irlanda l'hanno costruita gli artisti e gli psichiatri, dicevo. I surrealisti sicuramente hanno aiutato questo discorso. L'oggetto tattico di Lombroso, potremmo utilizzare come una sorta di slogan, diventa l'oggetto meraviglioso con Moreton e compagni, no? Diventa l'oggetto che viene messo nelle prime mostre surrealiste degli anni 30 e affiancato alle opere dei surrealisti. Io credo, lo scrivo, lo dico spesso, non so se ho ragione, ma credo che una delle esperienze di borderland dell'arte precoci in Occidente sia il famoso Mur Breton, cioè la famosa parete di André Breton nella sua casa parigina di Rue Fontaine, dove dagli anni 20 inizia ad accostare l'arte che viene dai paesi extraeuropei, i surrealisti fondamentalmente collezionano arte oceanica, che è il valore magico dell'Oceania, di quell'arte. Nel mio Breton c'è accanto all'arte papuasica, all'arte oceanica, sono posti opere che provengono degli ospedali psichiatrici, e poi ci sono le opere degli artisti amici, no? Ci sono, c'è Giacometti, c'è Miró, c'è De Gautier, che con l'informale negli anni 50, cioè, come dire, si crea, si compone un muro che è frutto di contaminazione. Quindi li potremmo trovare una sorta di antefatto di quello che leggiamo oggi, un antefatto che si costruisce nel tempo, il famoso Neoplatone è qualcosa che si costruisce negli anni, no? È il frutto anche dell'abbondanza, della peregrinazione, delle ricerche del surrealista. Però resta il fatto che l'oggetto atavico rombrosiano diventa un oggetto meraviglioso. Quindi qualcosa, la follia non produce solamente qualcosa di incomprensibile, come diceva Lombroso, era poi la psichiatria positivistica, ma anche la psichiatria degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50 fino alla fenomenologia, che cambia lo sguardo, no, sulla follia, e diventa qualcos'altro, diventa una lettura esistenzialista della carta della malattia mentale, cambia sostanzialmente lo sguardo, ma anche, e dunque anche sull'arte. Ma di fatto, come dire, è l'arte, no, che produce questo scarto. Lo produrrà Breton, lo produrrà Jean de Buffet negli anni del 45. L'Art Brut, io credo che sia veramente l'ultimo momento prima del dopoguerra, poi cambia tutto, credo, cambia tutto. Interviene il corpo, entrano altre dinamiche, ma quando Jean de Buffet con nel 45 il termine di Art Brut, che l'ha raccontato, non è l'arte brutta, ma è l'arte grezza, è come il diamante, è l'arte che nasce laddove nessuno la va a cercare. Jean de Buffet diceva, a proposito dell'arte e dell'Art Brut, che dice l'Art Brut è un'arte che nasce nell'incognito, dove nessuno può ritrovarla. L'arte, dice il Buffet, non dorme nei comodi letti che le sono stati preparati. È molto interessante, nella poetica di Jean de Buffet, ma nella poetica dell'appunto. Come dire, è qualcosa che quando la trovate è già altrove, no? Quando l'avete resa, come dire, istituzionale, pubblica e codificata, in fondo è finita. Non è un caso che Jean de Buffet amasse pochissimo le mostre di arte patologica o di arte che provenivano dai ospedali psichiatrici. Molti che si occupano di Art Brut, se ne sono occupati, se ne occupano tuttora, non sanno che de Buffet era molto critico ed era molto duro rispetto alle mostre di arte prodotte dagli ospedali psichiatrici. Diceva, ma guardate che in quell'arte che voi esponete non c'è pochissimo talento, c'è pochissimo arte. L'Art Brut è un diamante, è qualcosa che nasce qua e là, Wölfli, no? Wölfli uno, unico, dentro un ospedale psichiatrico che è enorme, no? Diventa uno. Dunque nessuna demagogia in Buffet, e credo nessuna, per fortuna nessuna demagogia nell'Art Brut, no? Molti piccoli fanno demagogia, per cui l'Art Brut direi tutto quello che assomiglia più vagamente a un informale di Buffet o a qualche suo figura, ovviamente, discorso caricaturale, credo. Finisco con, perché poi dico sempre per le lunghe, dicendo questo, come dire, perché poi del border non ho parlato alla fine, no? Allora andiamo dicendo una cosa sul border, che è una, ve la butto lì come possibile approfondimento, se poi avete voglia vi dirò dove scrivo queste cose, perché è una morte che sto preparando, per cui vi renderò offerte materiali e vi farò avere se vi interessa. C'è una coincidenza straordinaria che non deve sfuggire e che ci permette di leggere moltissimo gli anni 60, ma anche dagli anni 60 ad oggi, no? E la contemporaneità. Il termine borderland è un termine che fino agli anni 60 era poco usato, era molto vago e tuttora abbastanza ambiguo, no? Negli anni 60 diventa una patologia, una sindrome, la borderline syndrome, no? Nel 68, sono interessanti le date, nel 68 viene coniata il termine borderline syndrome, un gruppo di psichiatri, Grinker e altri, no? Non è che la cosa non esistesse, era però sottostimata e considerata eccessiva dei rifiuti degli psichiatri. Se uno non era nevrotico o psicotico, era qualcosa di simile a quello che poi viene chiamato borderline, no? Quindi c'era, come dire, un uso ad escludere, cioè non sei questo, non sei l'altro, sei un borderline. Anche oggi ogni tanto, non è che sia anche nel conto le cose, però è un po' diverso. Allora, 68 si coglie il termine borderline syndrome. Negli stessi, è la sindrome borderline clinica, al di là di alcune caratteristiche cliniche molto specialistiche, molto anche psicoanalitiche come definizione, ha la caratteristica di aver spostato molto della sua attenzione, molto del disagio sul corpo. Sul corpo. È una patologia molto legata ai tempi, no? Il corpo diventa centrale negli anni 60, ma anche la sua, il suo disagio diventa, come dire, si focalizza lì. No? Per definizione il borderline è colui che si ferisce, che si taglia, che cortocircuita il dolore psichico tagliandosi, ferendosi, non per morire, ma talvolta anche per provare, per interrompere il dolore psichico, no? Sto studiando delle cose nel mondo grossolane, perdonate, ma meriterebbero un altro approfondimento. Però, per capirci, no? Cioè, il corpo diventa l'oggetto, il veicolo della soggettività che è un disagio, a tantissimi livelli, da quello più dell'uso di sostanze a quello del mi taglio, mi ferisco, mi faccio del male, no? Fino al suicidio, fino alla morte, no? Nei casi più estremi. Negli stessi anni nasce la body art, non è un caso, no? Body art di quegli anni lì. E i performer della body art, vi faccio riferimento ai precursori viennesi del Verwaltner Nationalismus, no? Gunther Bruce, Hermann Nietzsche, Schwarzkogler, Rainer come maestro che non fa quelle cose ma però è legato storicamente a quel gruppo, che usano il corpo per mettere in scena il disagio. I turisti viennesi mettono in scena la rimozione del nazismo da parte dell'Austria, che era convinta che Hitler fosse tedesco e Beethoven austriaco. Invece era il contrario, il problema era il contrario. Quindi, come dire, io ho avuto l'occasione di conoscere bene Arnold Freiner negli anni scorsi e mi raccontava di questo, le prime performance a Vienna sono politiche. Gli azionisti mettono in scena il corpo e l'insulto alla bandiera austriaca, la provocazione usando il corpo, quindi come dire, usando il sangue come materia, le material action di Gunther Bruce, no? Le ferite che si infermano durante queste performance hanno un significato rituale, si ritenevano sacerdoti, sciamani, e freudiani, alcuni anche, questo è divertente. Nietzsche attualmente è ancora, certo, attualmente. Ci la trovano, no? Perché il pastore muore, suicida, povera, sulla scuola, no? Ma, come dire, è contro delle lezioni rituali politiche, però usano il corpo, cioè mettono in scena, poi Gunther Bust nel 64, la Borderline Syndrome nel 68, quindi, come dire, anticipa l'artista, come adesso succede, da veggente, no? Credo, anticipa quello che sta succedendo anche nella critica, ma nella società. Cioè, oggi, da diversi anni, c'è uno sociologo come Bauman, che ci anche persegue ogni tanto, con la famosa definizione di società liquida, di uomo liquido, ma in realtà è un riprendere. Sì, è la banalità. Sì, sì, però in fondo va a riprendere qualcosa che ha a che fare con un'identità che si è diventata più fragile, no? E che gli azionisti, che gli artisti della body art mettono in scena. Finisco dicendo l'ultima cosa che ci riguarda, perché è la triangolazione anche del contemporaneo. Nel 1970 Roger Cardinal, storico dell'arte inglese, studioso del surrealismo, conia il termine outsider art. Il famoso outsider art è dovuto al conio di uno storico dell'arte inglese, che era di nota così da definisce nel 70, ma pensandoci moltissimo in un certo senso, oggi è l'epigono che l'ha fatto diventare, come dire, uno strumento quasi biologico, no? Cioè l'outsider art è l'insider art, che mi sembra una cazzata colossale, no? Però quando cambia la conia diventa, come dire, dice sì la conia, perché a un certo punto dovevo tradurre in inglese il termine arbrut. Traducendo un termine inglese in francese in inglese ne cambia anche il senso, perché dico l'ultima cosa. Il termine outsider art non può essere a un certo punto anche che un omaggio implicito, non lo farà mai questo omaggio Cardinal, alla cultura outsider di quegli anni, nel 70, no? Quindi un omaggio a Ginsberg, a Kerouac, all'uomo della strada, che è l'uomo della strada che scopre Dubuffet. Dubuffet fa un omaggio, quando parla di Albrute, in termini acculturali più controculturali, è acculturale, dice Lorenzo Trucchi, ha ragione di Dubuffet. Dubuffet era un solitario, era un solipsista fondamentalmente, senza nessuna poetica collettiva, no? Ma quando parla dell'uomo comune, e parlerà poi dell'artista brut, in fondo l'outsider artista non è che l'aggiornamento negli anni odierni, ormai dagli anni 70 ad oggi, di quell'uomo lì, dell'uomo comune che Dubuffet riscopre, valorizza, che è sicuramente lì, ma che sono tutti quelli di cui non vi ho fatto vedere le immagini, che non so come fare. Aspetta, qui c'è una... Down è questa. Ah, perfetto. C'è del cazzo. Dovete andare avanti. Ragazzi, che figura di merda. Aspetta, no. Aspetta, io cerco più, ma... Nazionale, allora, se no fa niente, non è un problema. È bloccato. Sì, aspetta, anche qui. Sì, capito, perché c'è brutto, no, sì, certo. È quella che avevo provato. Sì, no, no, vabbè, fa niente, no. Perché poi in realtà vi ho fatto vedere tutti quegli artisti che hanno creato quell'immenso archivio dell'immaginario. Eccoli qua. Questa è la collezione Printo. Ce lo faccio io, vai. Dimmi tu. Collezione Printo, no? Anni 10, anni 20, no? Questo è il grande archivio dell'immaginario che oggi si chiama Outsider Art. Però questo non è Outsider Art, questa è la storia dell'arte. Ce n'è più? Oh, no, ce n'è ancora. Vabbè, fa niente. Non si becca più. È bloccato, non so perché. Comunque tu gli hai mostrato. Ha fatto quattro cose. Hai mostrato quattro cose. Questo è Carlo Pinelli, che è il più famoso degli artisti brut per Jean Dubuffet, degli outsider per alcuni oggi, credo che Carlo sia artista e punto, finisce lì. Grazie. Grazie a voi. Grazie a te.